Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Starting next month, we will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year. Partendo dal prossimo mese, saremo pronti a rimuovere 10.000 truppe dall'Afghanistan prima della fine di quest'anno e riporteremo a casa 33.000 truppe in totale dalla prossima estate. Dopo questa riduzione iniziale, le nostre truppe continueranno il ritiro progressivamente, lasciando il passo alle forze di sicurezza afghane. Cambierà da combattenti a sostenitori. Dal 2014 questo processo di transizione sarà completato e la popolazione afghana sarà responsabile della propria sicurezza. E quello che avete sentito era l'ultimo pronunciamento di Obama in tema di ritiro delle truppe, datato 22 giugno. E allora, Afghanistan, quale futuro? Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano, la squadra di oggi. In regia c'è Mauro De Angeli, in redazione Riccardo Poli. Le coordinate per interagire con noi sono SMS per domande o commenti, 349-238-6666. La mail è nessunluogo@radio24.it, la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Allora, 2014, anno zero per l'Afghanistan. 2014, via le truppe della coalizione internazionale dal paese e si volta pagina. Non solo gli Stati Uniti, ma anche Italia, Germania, Norvegia, fra gli altri, ritireranno i loro contingenti e il paese e la sua sicurezza torneranno nelle mani degli afghani. Con quali conseguenze? Che scenari possiamo ipotizzare? Di questo parliamo oggi a Nessun Luogo è Lontano. I talebani intensificano gli attacchi, ne fanno le spese anche i soldati italiani. Avete sentito dei 4 feriti ieri vicino a Herat. Il presidente afghano Karzai mostra fragilità, debolezze, forse persino qualche ambiguità. L'economia del paese, su che cosa si regge? L'Afghanistan è un paese senza stampelle o potrà camminare da solo? Giro immediatamente la domanda a Angelo Antonio Rosato, analista di Limes, la rivista italiana di geopolitica. Rosato, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, l'Afghanistan potrà camminare da solo con il ritiro datato 2014? È molto difficile dirlo. Per poter rispondere a questa domanda, non avendo la sfera di cristallo, dobbiamo riferirci all'esperienza, alla storia, a quello che è accaduto nel passato. E l'esperienza sovietica, quella della guerra afgano-sovietica, è quella che forse ci dà gli strumenti di analisi più interessanti. Cosa successe lì? Che per una coincidenza inquietante, anche lì, dopo 10 anni di occupazione infruttuosa, i sovietici decisero di ritirarsi nel 1989. Non ne seguì una debacle immediata. Il governo afgano, guidato da Najibullah, il presidente comunista Najibullah, resse per alcuni anni, 3-4 anni circa, però intanto scoppiò una guerra civile molto cruenta fra gli stessi Mujahideen, che praticamente fu quella che portò le maggiori distruzioni all'Afghanistan, peggio addirittura di quella dei sovietici. Kabul fu devastata e distrutta più dai Mujahideen che dai sovietici. Nel frattempo lo Stato crollò completamente e oggi, ancora oggi, abbiamo questa situazione. In realtà non esiste uno Stato in Afghanistan, io lo definisco un narco-Stato feudale, dove appunto le componenti sono quelle del narcotraffico e del feudalesimo e del non-Stato. E questa, Rosato, è la componente, diciamo, politica, ma facciamo un passo indietro, cerchiamo di fare più chiarezza su quelli che sono i passi e le date di questo annunciato ritiro. La NATO ha iniziato il lungo processo di ritiro delle proprie truppe dall'Afghanistan per lasciare il comando alle forze afghane. Babi Yar, a circa 230 km da Kabul, è stata la prima provincia a passare sotto il controllo locale a metà luglio. La scadenza di ritiro delle truppe internazionali è fissata per il 2015, a patto che le forze afghane siano in grado di mantenere la sicurezza sul territorio. All'inizio dell'anno il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha annunciato che circa 68.000 truppe rimarranno in Afghanistan dopo una prima tranche di 33.000 soldati che torneranno negli States nei prossimi mesi. Se tutto dovesse andare come i piani prevedono, la maggioranza maggior parte delle truppe verranno ritirate entro il 2013. L'Inghilterra, il secondo alleato più importante dell'operazione NATO in Afghanistan, ha più di 10.000 soldati nel paese, includendo le forze speciali. Le forze britanniche hanno promesso di ritirare i propri soldati entro il 2015. La Francia ha inoltre annunciato le operazioni di ritiro dei 4.000 soldati operativi in Afghanistan, partendo con 1.000 unità già a partire dalla fine dell'anno. La Germania, che ha fornito il terzo contingente più numeroso, ha dichiarato che si sta consolidando l'ipotesi del ritiro di 5.000 truppe presenti nelle differenti province afghane. Il Canada ha iniziato il ritiro del proprio contingente dall'Afghanistan lo scorso 6 luglio, a partire dalla base di Mazumdar, vicino a Kandahar, lasciando il controllo dell'area agli statunitensi. Il Canada ha contribuito con 2.800 unità all'ISAF, la forza di assistenza alla sicurezza in Afghanistan. Resterà nel paese una missione di 950 soldati per l'addestramento delle forze di sicurezza locali. La Norvegia ha garantito fino ad ora alla NATO un numero di circa 700 soldati per la forza ISAF, ma proprio nei giorni scorsi il ministro degli esteri norvegese ha annunciato che il governo ridurrà gradualmente il numero di soldati impegnati in Afghanistan per arrivare a lasciare il territorio entro il 2014. L'Italia invece non ha ancora reso noto un piano dettagliato del ritiro dei militari impiegati sul territorio. Il ministro degli esteri Franco Frattini ha confermato l'intenzione di iniziare il ritiro dei militari dall'Afghanistan già dal 2011, iniziato proprio nel luglio di quest'anno dalla città di Herat. Inoltre ha sottolineato che il ritiro delle forze avverrà in totale coordinamento con gli alleati e si completerà entro e non oltre il 2014. Un caposaldo della strategia della NATO è quello di consolidare il numero e l'efficienza delle forze di sicurezza afghane, nella speranza che prendano in mano la situazione. Si stima che l'esercito afghano cresca di circa 2.800 soldati al mese per arrivare a contare più di 170.000 unità entro l'ottobre del 2011. E allora, Angelo Antonio Rosato, questa formazione, questo training che anche gli italiani stanno compiendo sull'esercito afghano consegnerà al paese una stampella sufficientemente solida per poi procedere, camminare anche dal punto di vista politico? Allora, innanzitutto voglio dire che le attività di mentoring o MLT compiute dagli italiani e anche dagli altri soldati della NATO sono fatte da professionisti che sanno bene il loro mestiere, lo sanno molto bene. In prima linea abbiamo per esempio anche i carabinieri del Tuscania e di altre unità che sono stimati in tutto il mondo per questa attività. Il problema è un altro, il problema è che noi stiamo addestrando un esercito afghano e le forze di polizia, per cui ANF. Ma la domanda è per chi? Cioè chi utilizzerà questa forza militare, ammesso che si riesca in un tempo ormai breve, perché il 2014 è alle porte, ammesso che si riesca veramente a formare un esercito in grado di reggere sulle sue gambe, con mille difficoltà, chi è che utilizzerà questo esercito? Il debole Karzai, a cui mandato tra l'altro proprio nel 2014, guarda caso, è in scadenza, secondo la Costituzione non si potrebbe ricandidare immediatamente, o i signori della guerra? Il problema è che se l'Afghanistan ripiomba di nuovo nella guerra civile e soprattutto in una sorta di caos feudale, le truppe, i soldati addestrati diventeranno una sorta di forza armata di truppe irregolari al servizio del migliore offerente, sul tipo degli shogun del Giappone medievale o peggio ancora della Somalia di adesso. Allora, Angelo Antonio, hai citato il presidente Karzai, che da molti commentatori viene definito proprio il puppet, il pupazzo nelle mani degli americani, però Karzai sta dando segnali un po' ambigui, un po' diversi. Ascoltiamo insieme una sua dichiarazione del 3 giugno. The Afghan people can no longer tolerate these attacks on their homes. La popolazione afghana non può tollerare a lungo questi attacchi sul proprio territorio e un giorno, se non si arriverà ad un accordo con noi, basato su una negoziazione come soluzione a questa situazione che possa prevenire gli attacchi alle case dei civili, il governo afghano sarà costretto a intraprendere un'azione unilaterale su questo fronte. Noi dobbiamo dimostrare chiaramente che l'Afghanistan è un alleato e non un paese occupato e dobbiamo essere trattati da alleati. Se veniamo considerati invece un paese occupato, gli afghani non accetterebbero questa condizione. If it turns to the other, to the behavior of an occupation, then of course the Afghan people know how to deal with that. Allora, Allora, le parole piuttosto dure pronunciate da Karzai avvengono non dopo che non è successo nulla, per carità, era stato un raid della NATO nel sud-est del paese che era costata la vita di alcuni civili, però mi sembra di poter leggere tra le righe, probabilmente mi confermerai Angelo Antonio, che Karzai sta iniziando a, come dire, quasi a smarcarsi da non solo gli Stati Uniti ma da una presenza NATO che ormai insomma se ne sta andando, e quindi poi lui si troverà da solo a fronteggiare la minaccia dei talebani. È corretta questa visione? Il problema è per Karzai, questa dichiarazione, tra l'altro riportata una simile anche nel mio ultimo pezzo sull'IMES, sull'Afghanistan, il problema di Karzai è che è un uomo con le spalle al muro, nel senso che è percepito dagli afghani come fu pazzo degli americani, ma lui sa che gli americani lo stanno mollando. E questo lo rende, come dire, fa trovare terreno favorevole ai talebani o a chiunque per poter avere concessioni, perché Karzai oggi è disposto a tutto sulla base del programma APRP, Afghan Peace Reconciliation Program, l'ennesimo programma di riconciliazione simile a quello che fu varato da Najibullah e sappiamo come è andato a finire. Karzai sta cercando di trovare un accordo. Il problema è che dall'altra parte sanno benissimo che uno negozia, può negoziare da una posizione di forza per ottenere dei risultati, mentre lui, Karzai, non è in una posizione di forza, anzi è consapevole del fatto che i suoi maggiori sponsor già lo considerano corrotto e inaffidabile, in più lo stanno anche mollando. Vorrei sottolineare che nelle ultime settimane sono accaduti dei fatti molto gravi che in un certo senso sono speculari alla tattica americana degli attacchi mirati con i droni. Spiego meglio, i talebani stanno facendo la stessa cosa, stanno compiendo omicidi di personalità di alto profilo che sono praticamente la base del potere di Karzai. Prima gli hanno ucciso uno dei suoi maggiori aide, il consigliere, poi gli hanno ucciso il fratellastro, Hamid Karzai, il rais di Kandahar, nonché noto narcotrafficante. E poi ultimamente hanno ucciso il sindaco di Kandahar. In pratica la politica del carciofo, si stanno facendo terra bruciata intorno. Ora accusano Karzai di essere paranoico e di vedere i nemici dappertutto e di essere accerchiato. Beh, come direbbe Mark Twain, questo ragionamento presenta il non trascurabile vantaggio di essere vero. Nessun luogo è lontano. Buona giornata, gentili ascoltatori, ancora una volta da Giampaolo Musumeci, Riccardo Poli in redazione e Mauro De Angeli alla parte tecnica. Chi Afghanistan lascerà la coalizione internazionale che ha annunciato il ritiro che si concluderà entro il 2014? Di questo stiamo ragionando nella puntata di oggi, ma soprattutto che cosa succederà nella vita quotidiana, come impatterà il ritiro delle truppe su chi vive in Afghanistan e su chi ci lavora. Sarà un paese capace di camminare da solo? In diretta da Kabul abbiamo Alberto Cairo, fisioterapista di Croce Rossa Italiana e anche scrittore e lucido narratore delle vicende dell'Afghanistan. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Ecco, domando perdono agli ascoltatori, c'è un ritardo perché insomma la telefonata viaggia decine di migliaia di chilometri. Alberto, la domanda è, una volta che gli stranieri se ne saranno andati dall'Afghanistan, che paese lasceranno? È un paese che ha la forza di camminare da solo? Ormai si appoggia alla presenza straniera? È molto difficile rispondere a questa domanda perché l'Afghanistan, ormai si sa, è uno dei paesi più imprevedibili che ci siano. Certo, la cosa più spontanea, la risposta più spontanea è quella di dire scoppierà una guerra civile, una nuova guerra civile, come era successo negli anni 90. È difficile veramente capire cosa può succedere. Certo, l'Afghanistan si è arrangiato in qualche modo da solo per tanto tempo. È un paese di gente che sa arrangiarsi, sa trovare delle soluzioni. Ora, non sempre sono le migliori soluzioni, sono soluzioni di sopravvivenza, però credo che la strada sarà quella, in qualche modo riusciranno a sopravvivere. Esattamente come? Beh, quello sarà, sicuramente la qualità di vita scenderà ancora. Alberto, Tu lavori, viaggi per il territorio, viaggi spesso in Afghanistan. Come è cambiato e se sta cambiando il tuo lavoro negli ultimi mesi? Si sentono sempre più notizie di attacchi ai contingenti stranieri. Che percezione hai lì sul terreno per ciò che riguarda il tuo lavoro? Allora, il mio lavoro, io lavoro per la Croce Rossa internazionale, non per quella italiana come è stato detto prima, cioè quella di Ginevra, e il mio lavoro è quello di fisioterapista e responsabile dei centri di riabilitazione per disabili. Prima si trattava solo di disabili di guerra, adesso ci si occupa di disabili di ogni tipo, quindi anche persone con deformità o problemi congeniti o dovuti a malattie. Il nostro lavoro consiste nel provvedere loro riabilitazione fisica attraverso fisioterapia, protesi e reinserimento sociale. Cerchiamo di dar loro, di aiutarli ad andare a scuola, cercare loro un lavoro, insegnare loro un lavoro, e abbiamo cercato anche di essere un esempio in questo, dando lavoro e formando solo persone disabili. Quindi i 600 lavoratori che ho nei centri ortopedici, nei nostri 7 centri ortopedici, sono tutti quanti ex pazienti, persone con qualche disabilità. Ora lavoriamo in due modi. Il primo modo è quello di lavoriamo nei centri di riabilitazione, quindi aspettiamo che la gente venga da noi. Lavoriamo però anche nelle case e nelle comunità, persone con difficoltà particolari, con patologie particolari, come per esempio i midollolesi, i paraplegici. Per loro è molto difficile venire da noi, quindi siamo noi ad andare da loro sul territorio, oppure andiamo in regioni molto lontane a vedere, a cercare persone disabili per spiegare loro che possono essere curate in qualche modo. Ora, sicuramente negli ultimi anni il secondo modo di lavorare, cioè mandare sul territorio, uscire dai centri ortopedici, è diventato estremamente difficile. Abbiamo drasticamente ridotto la nostra attività là, proprio per una riduzione drammatica della sicurezza. Mai come adesso, zone che prima erano abbastanza sicure o perlomeno accessibili, ora non lo sono più. Quindi direi decisamente negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ormai è questione di anni, gli ultimi 3 anni, la situazione è molto peggiorata. Ci sono, che si dica, ci sono dichiarazioni soprattutto americane che dicono che stanno vincendo menti e cuori con le loro strategie. Beh, se lo fanno, sicuro se riescono, non lo so, mi sembra che praticamente i risultati siano l'opposto. Mai come adesso le regioni afghane sono state insicure. Grazie allora Alberto Cairo per la tua testimonianza. Alberto Cairo, fisioterapista Croce Rossa Internazionale in Afghanistan e scrittore. Una buona giornata e un buon lavoro. Allora, conquistare mente e cuori, faceva riferimento Alberto Cairo, era la tattica, no? degli americani, più volte sbandierata. Angelo Antonio Rosato, analista di Limes, questa tattica ha funzionato, sì o no? No, questa tattica non sta funzionando, si chiama COIN, Counter Insurgency Strategy, ed è stata formulata da Petraeus, applicata in Iraq e con il surge, il famoso surge in Iraq, che ha permesso parte di stabilizzare la situazione, e è stata anche teorizzata, e ci sono molti scritti a cui rimando, per esempio US Army Marine Corps Counterinsurgency Field Manual, dove si può studiare, eccetera. Ma in Afghanistan non funziona per una semplice ragione. L'idea è quella di dividere gli insurgenti dalla popolazione, di isolarli e così annientarli. Il problema è che dobbiamo chiederci se è possibile dividere gli insurgenti dalla popolazione, nel senso che spesso gli insurgenti sono parte della popolazione. Qui non stiamo in Bolivia, dove c'è un manipolo di guerriglieri isolati nelle giungle boliviane con Che Guevara che vengono braccati e alla fine uccisi dalle forze speciali. Qui siamo in un paese dove il Pashtun Wali, il caso dei Pashtun, cioè il loro codice d'onore fortissimo, prevede malmastia, ospitalità, per cui quando questi guerriglieri, questi insurgents, come vengono chiamati o come preferite, vanno nei villaggi dove ci sono dei legami tribali, vengono accolti e difesi, o perché appunto per rispetto della malmastia, o perché sanno che altrimenti gli tagliano la gola. Non solo, ma ci sono i famosi safe haven, nelle fatte a Pakistan, dove passando semplicemente una linea di confine che non esiste, cioè la linea Durand, possono rifugiarsi presso altri pastun, presso le loro stesse tribù. Angelo Antonio, ti interrompo perché le difficoltà che stai con grande lucidità mettendo in fila, che incontrano le forze della coalizione internazionale, le ha raccontate Tim Etherington, che è un giornalista, un fotografo e filmmaker americano e britannico, che è scomparso un paio di mesi fa a Misurata, in un film di cui faccio ascoltare un assaggio. During a firefight you never saw enemy. You never saw period almost, you know. It was like we're fighting ghosts, you know. These guys would be so well camouflaged and know the land so well, they know every nook and cranny to hide in and shoot out from. They could be shooting out from a hole that's... Restrepo di Tim Etherington è un film molto bello che racconta un avamposto dei Marines nella Korengal Valley, nel distretto di Kunar, nel nord-est dell'Afghanistan, e i militari che Tim ha intervistato in un lavoro che è durato un anno ad un tratto raccontano di fantasmi, cioè i talebani come fantasmi. Sono nemici che non vedono, sono nemici invisibili, nemici sfuggenti che riescono a nascondersi molto bene, insomma. E quindi in qualche modo questo film volevamo raccontarvi e rendere un omaggio a un collega scomparso, perché metteva molto bene in luce in quello che tu con grande razionalità e lucidità ci stavi raccontando. 13:43, do il mio benvenuto anche al terzo ospite di questa mattina, Gian Michele Sin, giornalista esperto di Afghanistan e Pakistan. Gian, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti voi. Allora Gian, fra l'altro tu sei quasi in partenza per l'Afghanistan, giusto? Sì, parto fra pochi giorni per un giro delle basi italiane alla vigilia della transizione, vedere un po' com'è la situazione, capire il livello di rischio che si sta elevando, a che punto è arrivato anche per i nostri militari, insomma. Ecco, e con te poi ragioneremo non solo su questo, ma l'altro capitolo che mi preme, che è il Pakistan, che non è affatto slegato dal paese di cui stiamo parlando. Angelo Antonio Rosato, l'ultima domanda e poi ti lasciamo al tuo lavoro. Quanto la parola chiave tribù può spiegare il futuro dell'Afghanistan? Rispondo volentieri, ma prima posso solo aggiungere velocissimamente una cosa sulla COIN, che è comunque collegata. Certo, certo, come no. Una delle ragioni principali per cui i Taliban sono efficaci e convincenti verso la popolazione civile, per cui la COIN non funziona, è perché i Taliban hanno studiato bene la lezione di Machiavelli espressa nel Principe, ovvero è meglio essere temuti che essere amati dalla popolazione afghana. Noi vogliamo essere amati, noi ci proviamo, ma appunto, come dicevo, è come disse una volta un afgano, quando gli si chiedeva a un contadino afgano di non coltivare l'oppio, la risposta fu: sai, quando ti puntano una pistola alla testa è molto difficile dire di no. E questa è, credo, l'epitaffio tombale della COIN, in un certo senso. La parola tribù è essenziale, perché l'Afghanistan, l'identità, il senso di identità non è certo nazionale, non è neanche regionale, ma è tribale. La divisione tribale non è solo interetnica, Pashtun, Tagiki, Hazara, eccetera, ma è anche intraetnica, cioè i Pashtun al loro interno sono divisi in varie tribù, dai Durrani, Popalzai, Gilzai, eccetera. Quello che appunto si teme è che questo patchwork tribale possa ricomparire e possa esplodere di nuovo con la ritirata occidentale e l'inesistenza di fatto di uno Stato afghano. Sottolineo che mentre i Taliban prima erano influenti solo sulle tribù Pashtun, adesso è sempre più evidente che la loro influenza si sta estendendo a macchia d'olio anche in territori a prevalenza tagika o azara, eccetera, cioè nel nord e nell'ovest. Grazie. Allora, Angelo Antonio Rosato, analista di Limes, per questa tua analisi. Nessun luogo è lontano. Allora, dall'Afghanistan al Pakistan, grazie a Gian Michele Sin, giornalista di guerra, esperto di entrambi i paesi perché li ha visitati a lungo, e in particolare autore di un libro che si chiama Pakistan, il santuario d'Al-Qaeda, che in qualche modo non solo è risuonato profetico, ma ha come dire, ben messo in luce quel che è un fittissimo intreccio tra interessi afghani, pakistani, occidentali, servizi di intelligence pakistani, questa gigantesca piovra, no? dalle forse anche dalle mille teste, non solo dai mille tentacoli, i servizi segreti, gli interessi nucleari. Al di là di questo non c'è il tempo per, come dire, ripercorrere l'inchiesta di Gianna, però la prima domanda che mi verrebbe da fare è questa: se ci avviamo a un futuro afghano fatto di, mettiamo nella migliore delle ipotesi, caos e caos tribale, guerra civile, chiamiamola come vogliamo, che cosa succederà al vicino Pakistan? Beh, io spero innanzitutto non ci avviamo verso un futuro di caos tribale, ma sicuramente sul caos tribale e sui legami tribali si basa la strategia del Pakistan per controllare tutte quelle parti che il Pakistan considera parte storica del proprio territorio, ovvero sia tutte quelle parti dove si estendono tutte le tribù legate alle tribù Pashtun, ovvero sia dai margini della provincia di Farah fino alla Pakistan, tutto in pratica il sud afghano, lì dove non arrivano le altre tribù. E attraverso le tribù Pashtun si esercita il tentativo del Pakistan di esercitare il proprio controllo sui talebani, creati a suo tempo dal Pakistan, che prima ancora esercitava il proprio controllo sui mujahideen che combattevano contro l'esercito sovietico negli anni Ottanta attraverso le tribù e i clan Pashtun, e che osteggiava sempre ad esempio le tribù di Massoud che appartenevano al gruppo etnico tagico. Ecco, per arrivare ad oggi la strategia pakistana per il controllo del sud e di gran parte dell'Afghanistan si esercita attraverso soprattutto il Mullah Omar, che è capo indiscusso di una fazione dei talebani, sì. Si esercita attraverso i clan Haqqani, un altro clan che compone la variegata galassia dei talebani, e attraverso il clan di Hekmatyar, un altro capo, un altro comandante storico, che è l'altro comandante che controlla l'altra parte, la terza parte della galassia talebana. Ecco, Gianna, hai usato il termine galassia talebana e vorrei appunto mettere in luce, anche col tuo aiuto, quello che come dire, è una riduzione mediatica, una riduzione giornalistica, ed è anche una forte semplificazione quando si dice i talebani, quando si dice Al-Shabaab nel caso della Somalia. Il termine nasconde comunque una realtà molto più complessa, molto più variegata, che poi per ragioni di economia, anche di linguaggio e di comunicazione, noi come dire, andiamo a semplificare. Esiste un contraddittorio all'interno della galassia talebana? Ci sono delle lotte intestine? Come funziona? Beh, innanzitutto chiariamo chi sono i talebani originariamente. I talebani originariamente sono gli studenti usciti dalle scuole coraniche che il Pakistan nel 1994, visto il fallimento delle milizie che avevano combattuto contro i sovietici di conquistare il potere, armò contro queste stesse milizie e li mandò a riportare ordine in Afghanistan. Quindi furono una creatura del Pakistan, uscirono dalle scuole coraniche, e oggi sono una galassia molto più diversa, ovviamente, dove c'è Mullah Omar che si dice che stia patteggiando con l'Occidente, mentre il Pakistan cerca di tenerlo prigioniero e impedirgli questa trattativa. C'è il Jalaluddin Haqqani, che era uno dei capi da sempre dei gruppi Pashtun che combattevano contro i sovietici, fedelissimo alleato del Pakistan, ed è ancora oggi il più fedele alleato del Pakistan, il più vicino a quel che resta di Al-Qaeda, è il più impegnato negli attentati a Kabul e contro le forze occidentali. Ma poi c'è una svariegata forma di combattimento, di opposizione a quella che è la presenza della NATO, che viene definita quelli che vengono definiti insorti nel vocabolario della NATO, che comprendono però anche capi locali che sono interessati al traffico di droga, che controllano i traffici di armi locali. Quindi sotto la parola talebani oggi si sintetizza in pratica tutto quello che è il disordine afghano, ovvero sia su questa incapacità di trovare una soluzione e di porre legge in un paese che da 30 anni non ha più legge. Ecco, sì. questo è il concetto. E ti chiedo un ultimo sforzo, diciamo, visionario per ciò che riguarda il futuro. Una volta che gli Stati Uniti in testa e poi tutti gli altri alleati avranno abbandonato l'Afghanistan, e quindi in qualche modo sembra di poter dire che non sarà più strategico negli interessi della NATO, allora perderemo interesse, la NATO, l'Occidente perderà interesse anche per il Pakistan, oppure vi sono delle dinamiche che per forza di cose noi dovremo continuare ad osservare? Guarda, la mia visione futuristica purtroppo non è assolutamente ottimistica, perché non è visionario dire che una volta ce ne saremmo andati noi dall'Afghanistan se avremo la sventura e saremo così poco avveduti da andarcene entro il 2014, verremo sostituiti immediatamente non dai talebani, ma verremo sostituiti immediatamente dalla Cina, che già oggi guarda all'Afghanistan con grandissimo interesse, innanzitutto per le condutture petrolifere, per le condutture del gas, ma guarda con estremo interesse anche perché deve contrapporsi a un'eventuale penetrazione islamica nei propri confini. Guarda un'alleanza con il Pakistan per ragioni militari, non a caso in questi giorni c'è stata una visita del capo dei servizi segreti pakistani in Cina, sì. E quindi diciamo che se ce ne andremo noi e abbandoneremo l'Afghanistan al proprio destino, la Cina sarà prontissima a prendere il nostro posto, esercitando il vero ruolo di grande potenza internazionale in quell'area. Grazie allora Gian Michele Sin per il tuo contributo, buon viaggio, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi, crepi in lupo. E ora voltiamo decisamente pagina in Thailandia, dove Ingluk Shinawatra, sorella dell'ex premier, è stata eletta ieri la prima donna ministro della Thailandia. Il commento di Raimondo Bultrini di Repubblica per noi. L'elezione della sorella di Thaksin Shinawatra di fatto riporta al potere un uomo, Thaksin appunto, che ha dominato per molti anni la scena politica ed economica del paese, del regno, tra il 2000 e il 2006, quando poi con un colpo di Stato è stato estromesso. È una famiglia che ha sicuramente fatto del giro di affari delle proprie compagnie, un po', diciamo, infatti lo chiamavano il Berlusconi dell'Asia, la sua bandiera è addirittura una compagnia telefonica di sua proprietà, la Shin Corporation, che era però di valore nazionale, quindi con dati molto, molto delicati, come se fosse la Telecom, per intenderci Italia, era stata venduta a un paese straniero, a Singapore, quindi questo determinò la reazione dei potenti economici thailandesi, che invece un po' appartengono a una sorta di aristocrazia più tradizionale. Questo che ha comportato che il paese fosse in mano appunto a una dinastia di fatto diversa da quella del passato. Thaksin oggi ritorna attraverso la sorella al potere dopo aver fatto ai suoi tempi delle politiche economiche populiste che si sono poi riprodotte e che saranno riprodotte adesso dalla sorella sostanzialmente. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E questo era il nostro punto di vista, anzi di Raimondo Bultrini, su ciò che è accaduto in Thailandia. C'è tempo per far scorrere il mappamondo e andare a vedere un po' che cosa sta accadendo in queste ore. Russia. Il rappresentante della Russia presso la NATO, Dmitry Rogozin, sostiene che la NATO stessa ha già cominciato a pianificare l'inizio di un'operazione militare contro la Siria. E questa la rivelazione del quotidiano Izvestia. Naturalmente, se fosse verificata questa notizia, questa indiscrezione, aprirebbe pagine anche preoccupanti, insomma, per ciò che riguarda quella zona. Ieri abbiamo parlato di Le Sei Contee del nord dell'Irlanda. Oggi il Belfast Telegraph riporta la notizia secondo cui il deputato, l'esponente del Partito Unionista Democratico, Jeffrey Donaldson, chiede la pena di morte per i terroristi in virtù di 40 petizioni online presentate al Parlamento nell'ambito del nuovo sistema governativo telematico. L'esponente politico unionista chiede che l'argomento della pena di morte torni a essere discusso in Parlamento dopo 30 anni che non se ne parlava. La sua giustificazione è stata: vorrei sentire quali sono le tesi contro la pena di morte. E poi a Santiago del Cile, dove ieri più di 550 persone sono state arrestate, in realtà non solo a Santiago ma appunto in diverse città del paese, nel corso di scontri fra studenti e forze dell'ordine durante manifestazioni studentesche per chiedere più fondi per l'insegnamento pubblico. 30 secondi per i titoli di coda. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi questa prima settimana di Nessun Luogo Lontano. Un grazie e un saluto anche da parte di Riccardo Poli, quest'oggi in redazione, di Mauro De Angeli, che era alla parte tecnica. Noi ci risentiamo puntuali lunedì 13:15, ma ricordate che Nessun Luogo è Lontano.